Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto della prima puntata di una nuova trasmissione che prende il posto della precedente che ho condotto fino a pochi giorni fa, Un abuso al giorno. Un abuso al giorno muore, ma è una morte, come dire, per me graziosa e interessante, perché si torna ad una nuova vita, ad un proseguimento di quel discorso. E con Sottotiro, quindi, che parte oggi, noi ci occuperemo di storie di mafia ed antimafia. Do subito la mail sottotiro@radio24.it. Perché? Perché mi aspetto molte segnalazioni di storie di resistenza alla mafia, di iniziative, manifestazioni, spettacoli, libri, denunce, tutto ciò che dà il senso della resistenza di un paese ad un'economia criminale e ad una criminalità organizzata che ormai ha ampiamente varcato e superato i confini del meridione. Per le mafie non esiste federalismo, non esiste secessionismo, non esiste Italia unita o divisa. Esistono soltanto gli affari, che per loro sono sempre sporchi. Allora, noi oggi parleremo, proprio per l'importanza che ha la lotta della mafia al nord, terreno florido per le cosche, inizieremo questa trasmissione parlando con l'amministratore delegato di Pedemontana, il dottor Salvatore Lombardo. E perché iniziamo con lui? Perché Pedemontana e il suo amministratore delegato hanno avuto un'idea molto interessante contro le infiltrazioni mafiose, non solo ricorso alle forze dell'ordine, quello c'è sempre, comunque lo do per scontato, ma anche una coppia di 007, chiamiamoli, comunque persone che vengono dal mondo delle forze dell'ordine e che lasciano la divisa per andare a vigilare nei cantieri. E da questo io oggi voglio partire per sapere che cosa fa una grandissima impresa per tenere lontane quelle che sono le tentazioni di infiltrarsi in una torta ricchissima. Pensate che la spesa per la costruzione, per questi 87 chilometri di autostrada per andare da Bergamo a Malpensa in un'ora nel 2015 sarà di circa 4 miliardi. E dove ci sono soldi, ahimè, ci sono le mafie. Benvenuto, dottor Lombardo. Buongiorno a lei, dottor Calullo, e buongiorno ai suoi ascoltatori. Allora, una coppia di 007, è una cosa scherzosa, ma ce la illustri lei. Beh, lei ha sintetizzato molto bene, quindi l'idea che è stata accettata anche dai nostri soci è quella di presidiare i cantieri. Presidiare i cantieri con sistemi tecnologici sicuramente ha la loro importanza, ma soprattutto l'aspetto umano, l'esperienza che hanno le forze dell'ordine in questa materia devono essere con noi. Già oggi noi lavoriamo molto bene con le forze dell'ordine, quindi io le assicuro che questo proficuo lavoro già oggi viene svolto. Certo. Però mi sono reso conto che se noi avessimo al nostro interno una, massimo due figure di persone che possono apportare con la loro lunga esperienza un approccio di verifica, di procedure, non tanto di procedure perché queste oramai sono consolidate, ma soprattutto di conoscenza degli uomini che frequentano il cantiere, penso che facciamo un passo avanti. Insomma, abbiamo bisogno anche, come dire, in Italia le imprese hanno bisogno anche del fiuto degli esperti. Molto bene, molto bene. La loro esperienza porta a capire, a sintetizzare, a valutare chi effettivamente è in cantiere, se ha prima di tutto gli accrediti, perché questo è sicuramente il momento importante. Quando in cantiere si presenta la persona che è quella che effettivamente lavora, ben venga, ma se in quel momento, metti caso, c'è un sostituto e quel sostituto non viene identificato, non sappiamo se quella è una brava persona oppure certo, meno. Certo, certo. Ecco, questo dottor, un po' e poi la filosofia. Prego. A tutela della gente che lavora in cantiere. Certo. Vede, io sono una persona che ha lavorato tanti anni in cantiere e mi creda, la gente che è in cantiere è per me, sono per me persone squisite, magnifiche. Prima di tutto fanno un grosso lavoro in periodi dell'anno dove d'estate poverini sudano. D'inverno invece prendono tanto di quel freddo, quindi già le situazioni climatiche, a differenza delle persone che lavorano comunque anche in ambienti chiusi, c'è la differenza. Assolutamente. Due, ci sono tante brave persone, tante brave ditte che oggi hanno veramente la possibilità di lavorare in un'opera grandiosa come lei prima ha detto, un'opera che francamente in questo momento necessita il territorio, attraversa 5 province, attraversano 100 comuni, quindi questo è un servizio che la gente e il territorio necessita. Certo. Dottor Lombardo... Allora, a rispetto di queste persone che lavorano, ma noi dobbiamo fare di tutto affinché queste persone lavorino bene. Assolutamente. Dottor Lombardo, lei ha ricordato, ed è importantissimo e fondamentale, la vostra vicinanza alle forze dell'ordine, i protocolli di legalità con le prefetture, quindi, come dire, è un contorno, è un puzzle che ha tante tessere. La legalità non è soltanto una tessera, ma sono tante. E quindi ha fatto bene a ricordare. Le volevo chiedere questo, ma avete già individuato queste persone, vengono dalle forze dell'ordine, sono dei privati? Cioè, li avete già catalogati, avete fatto già una scrematura, una selezione, quando entreranno in funzione? Allora, entreranno a brevissimo. Ho già fatto una scrematura, sono persone che hanno oggi una divisa. Quindi ho tempi capito. Tecnici per togliere questa divisa con il loro massimo rammarico, perché mi creda, anche capisco il loro passaggio, il loro travaglio professionale. Allora, noi saremo qui intanto a raccontarlo nel momento in cui entreranno in funzione. Mi piacerebbe ascoltare la voce di uno di loro, quindi su questo ci conto, dottor Lombardo. L'ultima domanda che le faccio è sul fronte delle denunce: qual è il vostro, come dire, motore propulsore nel denunciare le infiltrazioni delle mafie? Guardi, siamo molto attenti, non vogliamo avere a che fare assolutamente. Abbiamo il vantaggio, però mi perdoni, che in questo momento il lotto A è stato aggiudicato a una cordata di aziende molto ben organizzate, di esperienza, di sicura esperienza, quindi questo ci facilita il compito. Questa mia attenzione ulteriore, forse perché essendo figlio di maresciallo dei carabinieri in pensione, mi porta a fare una valutazione di questa natura. È un ulteriore passaggio di cautela. Però le assicuro che già oggi comunque chi lavora con noi è ben organizzata. Benissimo. Quindi non c'è di questa paura. Paura. Io ringrazio Salvatore Lombardo, amministratore delegato di Pedemontana. Gli auguro ovviamente buon lavoro, grazie per questa iniziativa. Ne voglio raccontare tante così. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella e in redazione Laura Fagin, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.